Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua di nuovo con una nuova pillola di ecomobilità con Gringo. Sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e sono con il meraviglioso Federico Angeli, il proprietario dell'attività Gringo. Ciao Federico. Ciao Irene, ciao a tutti. Siamo tornati, fa un bel caldino e noi qui stiamo schiumando negli studi di Radio Città Fujiko. Abbastanza. Perciò per evitare di amplificare questo senso di disagio, diciamo così, abbiamo pensato di parlare di stagionalità ovviamente, proiettandoci in avanti. Appena iniziata la bella stagione qui a Bologna, fa un caldo dell'altro mondo, per fortuna c'è un tempo che lo permette, quindi Gringo e attività come Gringo sono molto felici perché chiaramente hanno hanno una possibilità maggiore di lavoro. Siete molto stagionali, ma noi pensiamo a quando già verrà freschino, anche se è appena venuto caldo. Quindi la mia domanda provocatoria per Federico era: ma quando poi verrà, io che vengo da Gringo e ti dico Federico, io voglio continuare con la mia battaglia per l'ecomobilità, voglio portare avanti questa cosa crociata della mobilità individuale, dell'individualità, e come posso fare? Nel senso, io continuerò ad andare a lavorare dove vado, se devo attraversarmi Bologna probabilmente incontrerò degli eventi atmosferici che mi faranno dire potrei magari optare per un autobus, però io dico Federico, che cosa mi proponi? Cioè, che cosa esistono dei mezzi coperti che magari non siano non lo so, una macchina? Esatto, mi verrebbe da dire esistono tre soluzioni, di cui due non intelligenti, una intelligente. Siccome noi ci muoviamo con intelligenza, vogliamo cercare di fare questo, escludiamo a priori le prime due, che una sarebbe quella dell'illegalità di muoverti sotto i portici, e non si può fare, nel senso, in bici sotto i portici. La seconda è quella di muoverti in bicicletta con una mano sola, perché con l'altra tieni l'ombrello, e anche questa è una cosa che sconsiglio vivamente, anche se c'è chi lo fa. E andiamo alla terza, che come sempre non c'è due senza tre, e tre è il numero perfetto. Allora cerchiamo di capire questa terza soluzione. La terza soluzione è venire da chi come noi è specialista in questa mobilità intelligente, e le soluzioni potrebbero essere ad esempio di due tipi: o prendi in acquisto o a noleggio un triciclo, che non è quello che si usava da bambini, ma uno scooter elettrico tre ruote. E ultimamente ne stai vedendo tanti anche in centro, di persone che sono addetti al delivery, quindi al trasporto. Ecco, quelli sono dei tricicli che sono caratterizzati da una copertura, cioè escono proprio di fabbrica con un tetto che chiaramente ti ripara dalle intemperie, e hai addirittura anche il parabrezza con integrato, ovviamente con tanto di tergicristallo come le automobili. Ecco, se tu guidi un triciclo di quel genere, ovviamente 100% elettrico, che ti permette di accedere anche in area pedonale, praticamente cosa fai? Puoi viaggiare in totale sicurezza anche col maltempo. Ti volevo chiedere una cosa, perché quando hai nominato il delivery mi è venuta in mente un'altra cosa. Io ho visto più volte persone che si occupano sono postini fondamentalmente, sì, di Poste, sì, Italiane normalmente, che girano con un mezzo che a me diciamo ricorda una piccola macchina molto, sì, più semplice, sì, più leggera. E mi chiedevo se è il triciclo di cui tu parli. No, quello se è un quadriciclo. Okay. Quello è un'altra cosa ancora, che infatti era quello che ti stavo per dire, che oltre a questa soluzione qui, che è una soluzione diciamo col manubrio, cioè nel senso il triciclo tu lo guidi come uno scooter o una bici, cioè hai un manubrio con le leve dei freni. Ok, perfetto. Soluzione diversa è il quadriciclo. Il quadriciclo invece ha un volante come la macchina, però ha un peso e un rapporto peso-potenza pari a uno scooter, quindi è targato come uno scooter 50 o 125, anche se stiamo parlando di mezzi totalmente elettrici, e però è fatto con quattro ruote e un volante come un'autovettura. Cioè, c'è un mezzo, sì, per ogni stagione, c'è poco, esatto, da fare. Diciamo che sicuramente quando è brutto tempo, sicuramente noi lo vediamo anche con l'attività, cala drasticamente, ma a giusta ragione, l'utilizzo del monopattino o della bicicletta. È anche vero però il contrario, che probabilmente con la nuova stagione i mezzi coperti, anche se forse vanno un po' meno o comunque vanno ancora un po' implementati, cioè bisogna arrivare ad abituare le persone che ci sono anche queste soluzioni con la bella, sì, stagione, magari invece no. Sì, calano. Sì, sicuramente uno preferisce viaggiare, diciamo, col caldo, con sistemi che non gli portano ad avere qualcosa sopra la testa per sentire l'aria nei capelli, diciamo così, però è chiaro che ovviamente quando piove, insomma, un tetto sopra la testa ti aiuta, non sempre, farebbe insomma, assolutamente male. Bene, mi hai dato una risposta del tutto soddisfacente. Ovviamente io non... in via Bellaria abbiamo sia i tricicli che i quadricicli. Ma questo io, non, guarda, cioè, mi lasci senza parole, non so neanche come replicare. Normalmente mi piace avere un po' di, così come dire, buttare lì degli argomenti un po' friccicarielli in modo da poter stuzzicare. Non so cosa dire, mi hai fregata. Però, 1-0 per me. D'altra parte, no, 1-0, me ne hai già date di paghe. Io comunque, come ti dicevo a microfoni spenti, verrò, dovrò venire in via Bellaria e spero di incontrare tante altre persone. Molto bene, vi aspettiamo tutti. Grazie, ciao a tutti. Ciao Irene.